A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Sarà una bella ora di sport oggi a Radio 24 per A Tempo di Sport. Al microfono Claudio Arrigoni, poi Giorgio De Luca in redazione, Matteo Comes in regia. Vi riproporremo alcune storie davvero bellissime di sport che ci sono state anche richieste, soprattutto che ci avvicineranno alla Paralimpiade di Londra, della quale poi parleremo, che comincerà il 29 di agosto per concludersi il 9 di settembre. Dicevo storie belle, storie paralimpiche, ma non solo. La prima, quella con cui cominceremo, sarà di Marco Calamai, del suo basket integrato, poi Beatrice Vio, la sua scherma in carrozzina, lei amputata a tutti e quattro gli arti, che sarà a Londra a fare la tedofora, ma soprattutto sarà a Londra con l'aiuto del Parlamento europeo, in particolare di Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo. E poi quella del più famoso fra gli atleti paralimpici in Italia, Alex Zanardi. E allora cominciamo proprio con Marco Calamai. A tempo di sport. Buongiorno, io l'ho definito prima ex allenatore di pallacanestro, giustamente Angelo Costa, giornalista bolognese di quelli veri, ci ha subito mandato un SMS corretto, ma come ex? Io sono Marco Calamai, è tuttora un grande allenatore di pallacanestro, ed è verissimo. Di una pallacanestro un po' diversa però, Marco, vero? Sì, intanto ringraziovi della vostra telefonata, vi saluto, ti saluto Claudio. Sì, pallacanestro un po' diversa, ma la pallacanestro è una sola, certo. Sì, sì, si va in alto, si tende al cielo, ci si confronta, si gioca una palla. La nostra è una pallacanestro, diciamo, un po' speciale, ma perché sono speciali i giocatori a cui ci rivolgiamo. Uno sguardo verso l'altro, bellissimo libro di Marco Calamai, che parla di questo progetto che è partito anni fa, di pallacanestro sperimentale con ragazzi che hanno una disabilità, in particolare una disabilità intellettiva e relazionale, ma non solo, parliamo anche di ragazzi autistici, insomma, la pallacanestro che aiuta anche in questo, Marco. E questo progetto, prima di tutto, come ti è nato, perché ti sei impegnato in questo campo dopo tanti anni di pallacanestro al più alto livello, e in particolare che cosa stai facendo? Pallacanestro rimaneva per me lo sport più bello del mondo, insomma, no, lo sport che unisce davvero le diversità, i grandi, i piccini, i pesanti, i leggeri, e che fa osare tutti andare davvero in alto, ecco perché il titolo di questo è Uno sguardo verso l'alto. E mi ero stancato di professionismo, di tattiche, di esasperazione, di risultato, di tante situazioni. Allora ho pensato di fare altro, e quindi di dedicarmi a questi ragazzi che ho incontrato e che ho riconosciuto con questa disabilità. La palla li unisce, e da lì è partito un progetto lungo 17 anni che mette insieme 25 centri in Italia. E tu mi chiedevi dove sono adesso. Adesso sono al Palmasera Village di Calagonone, perché abbiamo appena finito, credo, il primo camp integrato vero di basket che si sia mai fatto in Italia, con 25 ragazzi disabili di Bologna, di Dorgali e di Sassari, e 25 ragazzi normodotati. Sono venuti a trovarci e sono stati con noi Daniele Cinciarini, la guardia di Cremona, e Basile, lo stesso giorno che ha firmato per l'Armani Milano, da Olbia, per stare con i nostri ragazzi, perché ci sono anche giocatori speciali tra i professionisti, insomma. Quindi questa è un'ottima location, stiamo bene, si gioca con il mare sotto i piedi, ma il canestro è lo stesso, e abbiamo visto che la strada è una sola, quindi normodotati e disabili insieme per andare al di là, insomma, ecco, la pallacanestro ci aiuta ad andare al di là. Marco, facciamo anche un po' di radioservizio, nel senso che sì, magari ci sono ascoltatori che hanno dei figli o degli amici o dei parenti, dicono, allora anche mio figlio, anche il mio amico può giocare a pallacanestro anche se ha una disabilità di un certo tipo, eccetera. Che cosa bisogna fare, Marco? Beh, intanto avere fiducia nelle qualità del proprio figlio o delle persone che conosciamo, insomma, no? Pensare che le qualità di qualunque persona, anche con disabilità, sono molto più alte dei limiti delle persone. Avendo fiducia, cercare delle strade che possono essere confacenti al piacere e alle caratteristiche di queste persone. Chi volesse giocare a pallacanestro e ha magari un figlio o un parente con una difficoltà, può ad esempio cercare sul sito della Lega Basket o della Federazione il mio progetto, rivolgersi direttamente alla Fortitudo SG di Bologna, che fa da tramite allo 051 55 46 60 e avranno tutte le indicazioni, poi metteranno in contatto con me e noi copriamo tutto il nord Italia, arriviamo fino a Roma, quindi Milano, Treviso, Reggio Emilia, Modena, Pavia, Rimini, Bologna, Firenze, Livorno, insomma siamo coperti, Ancona, e quindi chi ha qualche persona che abita lì o vicino può lavorare nei centri che sono collegati al mio metodo con persone che sono formate con me, quindi con una garanzia di stare bene e di far star meglio gli altri. Poi. Per far capire bene quello che fa Marco Calamai, un'altra delle cose che mi hanno colpito, per esempio nella presentazione del tuo libro, dice l'allenamento stava finendo, i bambini stavano per salire sul pulmino in attesa, un altro intenso giovedì era finito, Sofia era già avvolta nel suo cappotto, mi sono avvicinato per un saluto, guardandomi mi ha sorriso e con naturalezza mi ha detto ciao. Era la prima volta che mi parlava, anzi, era la prima volta che parlava. Questa è la pallacanestro, questo è lo sport, Marco. Sì, ci sono anche questi miracoli, naturalmente non sono così frequenti, ma è successo anche questo, è successo ormai 15 o 16 anni fa. Sofia era una bambina, adesso una ragazza, allora una bambina autistica di 10 anni, chiusa nel suo mutismo e anche nella sua apparente serenità, perché questo era il volto che lei ci dava. Per giorni e settimane e mesi ha ignorato noi e la palla, apparentemente, poi come tu ben sai la scuola di Parma, le neuroscienze, Rizzolati eccetera hanno fatto capire che i neuroni specchio insomma giocano un ruolo importante, lei si allenava anche solo guardando e improvvisamente è entrata in contatto con il pallone. Prima piangendo, poi ridendo e nel giro di mezz'ora ha recuperato i mesi di assenza nel mio linguaggio, lei invece era presente e a fine allenamento ci ha regalato la sua prima parola, ciao, e da lì in poi ha parlato, insomma, ecco, a volte la palla va a suscitare dà degli stimoli particolari, certamente se non hai il dono della parola non ce la fa, però diciamo che questo può succedere, insomma, no? Ecco, succede anche in altri campi. Don Milani ci riusciva a far parlare le persone che non parlavano, no? Sì. Con delle modalità, leggevo oggi un articolo che presenta il libro di questa sua collega chiamata professoressa di 88 anni, che ha ricordato come Don Milani ha fatto parlare un certo Marcello che non parlava, gli ha messo davanti una banana, la vuoi mangiare la cani banana? Settimane sono passate, alla fine ha detto banana, l'ha mangiata ma ha anche parlato, ecco, cioè, sembrano sistemi brutali ma insomma a volte sono efficaci. La palla è un grande mediatore per i ragazzi, piace a tutti, piace anche a quelli che cercano di non toccarla perché è la vita che li cerca la palla, però poi sono attratti e piano piano arrivano, ognuno con i propri tempi, questo è importante da ricordare perché ognuno di noi ha i propri assolutamente tempi. SMS che sono arrivati per te, Marco, al 349-238-6666. Brividi ad ascoltare Marco, dice Andrea che è un insegnante di sostegno di Treviso. Un altro, Marco, persona fantastica, ancora grazie per quello che sta facendo. Luigi, che è papà di Davide, Reggio Emilia, quindi anche persone, diciamo, da diverse parti d'Italia, ma che probabilmente conoscono il tuo metodo oppure lo stanno conoscendo in questo periodo. Penso che Davide di avere capito. Ok, Marco, Per chiudere, non possiamo non parlare anche di quel basket di cui hai accennato poco fa. C'è quest'Italia che non è andata all'Olimpiade, c'è un'Italia invece del campionato che sta vivendo un momento un po' di trasformazione dopo tutto questo dominio di Siena, anche se Siena ha vinto di nuovo con un 4-0, però non mi sentirei di riscommettere su Siena per l'anno prossimo. Beh, grande ridimensionamento economico, Monte dei Paschi che ha ridotto l'investimento, però Minucci, come ha fatto prima con Pianigiani e adesso con Banchi, sta programmando molto bene, la squadra avrà una grande vitalità fisica, magari meno tecnica, però sarà ancora un avversario molto competitivo. Certamente Milano e Armani in particolare sono chiamate adesso a dare un colpo importante, anche perché proprio Giorgio Armani non si stanchi, no? Con investimenti copiosi e corposi, credo che meriti un risultato. Però Siena sarà un avversario duro, Cantù si sta ricostruendo con intelligenza. Io penso però che proprio quel Basile che è passato qui dal Palmasera ed è passato da noi a trovarci possa essere a 37 anni ancora la chiave di volta. Se Milano vincerà il titolo vedrai che qualche cosa gliel'ha risolta Basile, anche quelle cose che non si vedono, perché Basile è un uomo spogliatoio unico, non me lo dimentico che la medaglia d'argento delle Olimpiadi di Atene del 2004 porta la firma in particolare di Basile, quindi fiducia a questa nuova nazionale, però di Basile purtroppo non ne vedo. No, sono assolutamente d'accordo, ne parlavo proprio settimana scorsa con Fabrizio Frates, vice allenatore di Milano, con Sergio Scariolo, e sarà un giocatore fondamentale in quella squadra, al di là dei minuti che giocherà o dei tiri ignoranti, come li chiama lui, che farà. E delle trasferte Basile conterà tanto, e secondo me ogni tanto anche qualche zampata in campo. Bebe Vio è una bravissima e oggi direi molto più che brava, fra le più brave al mondo, visto quello che ha combinato settimana scorsa anche in Coppa del Mondo di scherma paralimpica, il mondiale giovanile di scherma paralimpica, è una bravissima schermitrice in carrozzina, amputata ai quattro arti dopo una brutta malattia quando aveva 11 anni, non si è persa d'animo, ha ripreso soprattutto a fare scherma e oggi, ripeto, è fra le più brave del mondo. Beatrice, lo sport ti ha dato moltissimo, vero? Sì, sicuramente. È quello che mi ha fatto uscire dall'ospedale e che tuttora mi fa andare avanti. E uno dei grandi sogni di Bebe, come di tutti gli sportivi paralimpici, è quello di partecipare alla Paralimpiade. Per vari motivi Londra a Londra non ci sarà come atleta, ma ci sarà in altri modi, corrispondente fra giornali, televisioni. È giusto così, a 15 anni hai tutto il tempo, Bebe. Pensiamo a Rio, dove ha iniziato anche a correre adesso, quindi potrebbe essere che non ci vai solo per la scherma. Beh, io ho detto che il mio punto è vorrei arrivare fin là sia con la scherma che con l'atletica. Adesso ho 4 anni, 5 per prepararmi, e quest'estate papà ha detto che mi farà lui da allenatore, per cui non so se andrò molto avanti con lui, però vediamo. No, con tuo papà vai benissimo, quindi anzi assolutamente. E a Londra c'era qualche problema per farti vedere un po' tutte le gare, e devo dire che in questo ti è venuto incontro addirittura il Parlamento Europeo. Abbiamo il piacere di avere qui il vicepresidente del Parlamento Europeo, la vicepresidente Roberta Angelilli. Buongiorno onorevole. Buongiorno e buongiorno a Bebe. Ciao. Vi siete incontrati perché Bebe è venuta a Bruxelles a un bellissimo incontro che avete fatto su bambini e disabilità. E cosa è successo, onorevole, in quella giornata e poi nel proseguo dopo quella giornata? È stata una giornata bellissima perché Bebe è una forza della natura, quindi non soltanto una fantastica atleta, ma è una ragazza veramente straordinaria, quindi ha travolto tutti con il suo entusiasmo. Il primo ad essere travolto è stato proprio Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, e tutti i deputati sono rimasti incantati, senza parole, no? I deputati che spesso parlano, di fronte a Bebe sono letteralmente ammutoliti. Quello che è bello però è che è scattata proprio una gara non tanto di solidarietà rispetto a Bebe, perché Bebe non ha proprio bisogno di solidarietà, ma una gara per sostenere questa buona causa di Bebe a partecipare appunto alle Olimpiadi come giornalista, come corrispondente. 113 deputati di tutti e 27 i paesi membri si sono schierati con Bebe. Avete mandato una bellissima lettera al presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Phil Craven, che ha già sortito i suoi effetti. Ebbene, Bebe, ma quando tu vedi che ci sono queste bellissime manifestazioni verso di te, alla fine cosa pensi? Perché? In realtà non lo so, perché secondo me è pazzesco che praticamente tutta l'Europa ha firmato per me, per cui mi sembra stranissimo che anche gente che non mi conosce, non sa niente di me, ha firmato, sono contenta, mi fa strano però. Ti fa strano come il fatto che oltre 2000 email in inglese dall'Italia sono arrivate per sostenerti a fare la tedofora paralimpica, perché porterai anche la torcia, vero Bebe? Esatto, la fiaccola. La fiaccola nel giorno che ci sarà la cerimonia di apertura. 2000 email, dicevo Bebe, e fra l'altro scritte in inglese, per cui possiamo figurarci come siano ben fatte. Senti Bebe, ma la tua giornata fra scuola, compiti, e poi ci sono gli allenamenti, e poi c'è la famiglia e tutto il resto, quante ore ha? In che senso quante ore ha? No, come riesci a fare tutto, Bebe? Boh, ma io c'ho una brava mamma, diciamo, e un bravo papà che mi incastrano, riescono ad incastrarmi tutto tra una cosa e l'altra, alla fine spesso ce la faccio, non sempre. Ce la racconti un attimo questa tua giornata, Bebe? Beh, adesso in realtà sono abbastanza in vacanza. Adesso sei molto in vacanza, e quando studi? In vacanza o in generale? No, in generale, quando vai anche a scuola, dai. A casa tra, che ne so, pranzo e prima di andare a fisioterapia, o a fisioterapia mentre la Dina mi fa i massaggi, o in macchina, insomma, in qualche modo riesco a fare. A studiare anche? Sì. Fra le altre cose. Roberta, mi accennava onorevole che ha colpito tutti la storia di Bebe. Certo è una storia pazzesca, però che dimostra quanto lo sport paralimpico sia importante e necessario da sostenere. Assolutamente, perché è una strada molto positiva, di assolutamente importante, perché la storia di Bebe è una storia bellissima, è una storia positiva, una storia di successo, ecco, non una storia rispetto alla quale la gente si commuove e basta, è una storia che veramente rappresenta un esempio, quindi bisogna premiare questo entusiasmo, questa forte motivazione che è di Bebe, ma è di tantissimi ragazzi e di tantissime ragazze, e quindi bisogna sostenere lo sport paralimpico. Paralimpiade che sarà dal 29 di agosto fino al 9 di luglio, naturalmente le Olimpiadi il mese precedente. Di settembre, certo, brava Bebe, come al solito correggi, giustamente. Olimpiadi invece che saranno naturalmente il mese precedente. Un sms che è arrivato al 349-238-6666 dice: altro che calcio mercato con Bebe, l'Italia ha già vinto l'Olimpiade, scrive Antonio da Brescia. Ma noi piace mischiare il calcio mercato e le storie come quella bellissima di Bebe. Poi Bebe non ha ancora vinto la Paralimpiade, perché Bebe devi, in questi 4 anni devi metterti sotto con allenamenti e cercare lì davvero di vincere, perché Rio sarà una bella occasione per te. Sì, sì, questo sicuro. Sicuramente non farò mai come dici quel ragazzo che fa basket ogni mattina, si mette là prima di andare a scuola 100 canestri e poi va a scuola tranquillo così. E questo era il racconto che un giorno ci facevamo di Drazen Petrovic, grandissimo campione di basket, che si metteva, ne faceva 500 tiri. Bebe, sarebbe bello che tu ti alzi invece che alle 6 come ti alzi normalmente, ti alzi magari un'oretta prima e ti prepari, ti puoi alzare anche alle 5, beh, hai letto un po' prima la sera, Bebe. Sì, va bene. Bebe, i tuoi genitori hanno messo in piedi una bellissima associazione che si chiama, esatto, Art for Sport. Art for Sport. E ci racconti che cosa fa Art for Sport? Allora, inizialmente è iniziata per principalmente per me, perché io dopo tutta questa malattia e tutto quanto facevo scherma prima e volevo rifarla dopo. Però lo Stato non passa le protesi sportive. Abbiamo chiesto il CIP al Comitato Italiano Paralimpico, però hanno detto che loro aiutano solo quelli che già hanno fatto risultati. Però se io dovevo ancora iniziare, non mi aspettavo per niente di fare risultati, volevo solo divertirmi, e allora non ci hanno aiutato. Per cui per questo i miei genitori hanno fatto questa associazione, e dove praticamente diamo protesi o carrozzine o pedane o tutto quel che può servire, stampelle, per i ragazzi amputati. Quindi Art for Sport, artforsport.org, giusto? Per sì, chi per chi vuole cercare, e fra l'altro Art4Sport tutto minuscolo. Art, abbiamo detto, non sta per Sta per arte. Esatto. Grazie Beatrice, la tua forza di volontà è da esempio per tutti noi che nella vita per molto meno ci facciamo sopraffare dalle difficoltà quotidiane. Forza Beatrice, facciamo il tifo per te. Sergio, Cinzia, Carlo, Monica, Alessandro, insomma tanti. E quanti sono? Quanti sono? Non lo so, però hanno usato un solo sms per spendere meno, hanno fatto benissimo. Esatto. Fra le altre cose, onorevole, per chiudere questa parentesi, so che deve andare in aula fra poco. Abbiamo detto cosa ha dato Bebe quando è venuta al Parlamento europeo. Posso chiedere una cosa personale? Che cosa ha dato a lei Bebe? Ma mi ha dato veramente tanta forza, perché lei con questa sua determinazione, con questa sua fortissima motivazione, che però si coniuga anche, si accompagna con un senso di sacrificio, con un grande rigore, con una fortissima spontaneità, veramente è un esempio, per me è stato un esempio, e penso che veramente lei sia un'icona, un esempio per tutti i giovani, no? È un momento di crisi, i ragazzi soprattutto sono demotivati, c'è veramente un clima depressivo, soprattutto tra i ragazzi. Bene, Bebe è un punto di riferimento, veramente una luce, un esempio da seguire e un insegnamento per i giovani, ma anche per i meno giovani. Bebe è pronta per le Olimpiadi, ma forse anche per il Parlamento europeo, ci scrivono. Roberta, non so. Se... Ma magari. Ha tutte le carte in regola, perché è una ragazza forte, perché è giovane, perché è veramente piena di talenti, quindi in Europa in questo momento più che mai c'è bisogno di persone che vogliono gettare il cuore oltre l'ostacolo. Bebe, tu adesso pensa allo sport, la politica c'hai moltissimi anni più avanti, quindi sì, adesso pensa allo sport, pensa a fare bene alle Paralimpiadi, quando ci saranno e alle prossime gare. Ci vuoi ricordare che cosa hai vinto prima di lasciarti andare al tuo pomeriggio, che sarà sicuramente divertente? Che cosa hai vinto settimana scorsa a Varsavia? Ho fatto due argenti, uno alla Coppa del Mondo, quindi con tutte le età, e uno ai Mondiali Under 18. E allora, come dicono alle Olimpiadi, congratulations, dicono agli atleti che vincono, brava Bebe, ti aspettiamo ancora su Radio 24, naturalmente sappiamo che ci tornerai soprattutto vicina alle Paralimpiadi, grazie anche all'onorevole Roberto Angelilli, vicepresidente del Parlamento Europeo, e anche in particolare per quello che ha fatto per Bebe, stimolando anche gli altri membri del Parlamento Europeo. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di una bella, davvero bella storia di sport, come dice Luca da Belluno, che ci ha scritto al 349-238-6666, da brividi. La storia del più famoso fra gli atleti paralimpici, Alex Zanardi, un pilota, grandissimo pilota prima, amputato a entrambe le gambe, ora il suo sogno, la vittoria alla Paralimpiade con le bike. Sì, perché ancora oggi tante persone mi fermano per strada, mi dicono: ma corri ancora in auto? Io dico: no, guarda, sto facendo tutt'altra cosa. E in realtà inventarsi ciclista a più di 40 anni è una cosa perlomeno abbastanza curiosa. Io ho scoperto questo mezzo che da subito mi ha preso tantissimo, è stato molto facile catalogarlo tra le passioni più care. E in verità Londra, se vuoi, è un obiettivo importantissimo. Attenzione, non voglio assolutamente sminuire il valore di una cosa che anche per una persona che come il sottoscritto, insomma, dallo sport ha avuto tanto, dalla vita in generale ha avuto tantissimo, ecco, sicuramente Londra sarà estremamente emozionante. Però detto tutto questo, è un orizzonte verso il quale io mi sono mosso con grande entusiasmo da tempo. Non è che l'ho fatto per andare a Londra, l'ho fatto perché essenzialmente la felicità la incontro già lunedì mattina quando esco in allenamento, non è che devo attendere la domenica di gara. Ed è per questa ragione, credo, che contro, se vuoi, anche un po' ogni pronostico, visto i miei anni, visto la mia età, sono riuscito comunque a centrare un risultato già di per sé molto prestigioso come la qualifica. Perché se è vero che a livello paralimpico ci sono discipline sportive dove forse il livello non è così irresistibile, nel paraciclismo non è assolutamente così, e quindi, ecco, è anche un po' la ragione per cui da subito, quando mi sono avvicinato a questa disciplina sportiva, ci ho trovato tanto sugo, no? Il fatto di dire: caspita, riuscissi ad arrivare al livello dei più forti internazionalmente parlando sarebbe davvero una sfida estremamente eccitante, insomma, ecco, esserci riuscito mi rende molto, molto fiero ed orgoglioso, però non basta, perché logicamente poi l'appetito viene mangiando, i giochi sono alle porte e credo di poter fare molto bene. Ecco Alex, tu sei stato uno dei grandissimi fra i piloti, e ricordiamo naturalmente anche per chi non conoscesse bene, ma dopo la Paralimpiade, dal 29 agosto al 10 settembre, ci sono i giochi paralimpici dedicati ad atleti con disabilità, fra questi anche il ciclismo paralimpico, e nel paraciclismo vi è proprio l'end bike, che è il mezzo che usa Alex Zanardi. Ecco, ti chiedevo, hai trovato delle differenze di impatto, di emozione nel guidare un mezzo come l'end bike rispetto a quello che guidavi tu poco prima? E intanto ricordo 349-238-6666 per i vostri sms. Alex? Ma logicamente quando arrivo a una curva ho qualche reminiscenza di ciò che facevo prima, e quindi forse ancora qualche piccolo vantaggio rispetto a certi miei avversari ce l'ho. Però sfortunatamente poi ciò che conta davvero nel ciclismo è il motore in questo caso sono io, quindi bisogna averne cura, bisogna nutrirlo nel modo adeguato, bisogna allenarsi, bisogna fare tutta una serie di cose che entro certi limiti io ho sempre fatto nel corso della mia vita, ed è anche la ragione per cui tutto sommato questo nuovo appuntamento mi sono fatto trovare abbastanza pronto da subito. Però è logico che sono entrato in un meccanismo per certi aspetti a me completamente nuovo, perché l'allenamento, soprattutto quando tu prepari non una gara come può essere il Giro d'Italia di ciclismo, quindi fatta di tante tappe, 200 fischi a chilometro ogni giorno, eccetera, ma tu sei chiamato a preparare una gara di 60-65 chilometri, che è un po' one shot, no? E per cui certo, non avrebbe nemmeno senso logorarsi in allenamenti incredibilmente lunghi. Bisogna fare un po' entrambe le cose, ma è anche molto importante lavorare in modo specifico su certe caratteristiche che per certi aspetti devono essere abbastanza innate, ma per altri vanno logicamente migliorate. Io, ecco, da questo punto di vista ho dovuto davvero ritornare a scuola, come si dice, perché all'inizio vuoi anche il mio entusiasmo, uscivo in allenamento e se non tornavo a casa stravolto mi sembrava di non aver lavorato in modo adeguato. Oggi ho un allenatore molto bravo, si chiama Francesco Chiappera, un ragazzo che curiosamente ha 16 anni meno dell'atleta, però mi ha permesso di fare un grande salto di qualità, perché sa misurarmi il lavoro, e quindi anche quando io magari un po' per entusiasmo, un po' per altre ragioni finisco comunque per esagerare, poi mi lima qualcosa sul giorno seguente o nella settimana successiva. E nel nostro caso forse più che allenamento si tratta di parlare di forse di stimolazione, cioè tu dai al tuo corpo dei piccoli stress per i quali lui poi si organizza, reagisce e logicamente ti permette di essere più brillante, più resistente quando poi gli chiedi quel qualche cosa in più il giorno della gara. Ecco Alex, prima di tornare a qualche domanda anche che ci arriva dagli ascoltatori anche sul mondo dei motori, ma tu hai anche dei compagni molto bravi, fra l'altro alcuni che fanno parte del Barilla Blue Team, un grande team che mi è stato messo in piedi proprio da Barilla, con tre atleti, Vittorio Podestà, Fabrizio Macchi, oltre naturalmente a te, che possono puntare non solo al podio ma anche a qualcosa di più alla Paralimpiade. Cosa possiamo aspettarci a questo paraciclismo azzurro che è molto in crescita? Beh, logicamente l'intera nazionale paraciclistica italiana è di altissimo livello, come dicevo poc'anzi, l'Italia è il paese che ha conquistato il maggior numero di posti grazie ai risultati del gruppo nelle varie gare di Coppa del Mondo, nelle gare internazionali disputate negli ultimi due anni, che logicamente valgono al nostro paese ben 12 posti nelle tutte le varie categorie nella prossima edizione della Paralimpiade. E tutto è sempre perfettibile logicamente, però insomma l'Italia si è distinta, abbiamo diversi campioni del mondo, non sono io purtroppo ancora, ma chissà che qualche cosa possa essere corretto proprio a settembre a Londra. E poi io sono da tanti anni testimonia di questa importante azienda italiana che è Barilla, e mi fa veramente piacere che quando annunciai loro l'intenzione di mettere perlomeno in stand-by i miei programmi sportivi automobilistici a favore di questo nuovo impegno sportivo, visto che volevo davvero, cioè ci tenevo a frugarmi in tasca, a vedere se riuscivo a trovare quanto serviva per guadagnare quella competitività che mi avrebbe poi permesso di qualificarmi per l'edizione di questi giochi, e quindi aggiungere anche questa cosa ad una vita così unica di esperienze che ho avuto la fortuna di vivere, ebbene ho trovato grandissimo entusiasmo dall'altra parte, perché evidentemente hanno capito che da un punto di vista di valori che in questo sport sono davvero, come posso dire, il modus operandi di quasi tutti gli atleti, ecco, c'era veramente terreno fertile, tanto è vero che appunto hanno voluto creare questa specie di mini team agganciando anche questi due grandi campioni che tu hai menzionato poc'anzi, che sono Fabrizio Macchio e Vittorio Podestà, grandi amici anche personalmente del sottoscritto, e logicamente all'inizio era soltanto un sogno, poi è diventato un obiettivo e adesso è un risultato acquisito, perché insomma ci siamo qualificati tutti e tre saremo ai giochi a rappresentare il nostro paese, logicamente teniamo le dita incrociate perché comunque un pizzico di fortuna o sfortuna può comunque fare la differenza, però per lasciare il meno possibile al caso ci stiamo preparando tantissimo assieme agli altri ragazzi della nazionale, ma anche in sessioni nostre private in cui da un punto di vista di allenamento non è che abbiamo tantissimo da spartire, ma come esperienze, ragionamenti e tutto, insomma questa è una passione per cui non ci costa sacrificio parlarne, confrontarci e reciprocamente credo che siamo stati in grado di aiutarci tantissimo, quindi ecco, un po' di spirito di cameratismo è secondo me alla base di uno sport così duro come il ciclismo, dove francamente in determinate situazioni poi ciò che fa la differenza oltre che i muscoli è anche la testa, il fatto di stringere ancora un po' i denti quando pensi di essere già arrivato e poi in quel secondo o due in cui hai fatto questa cosa così difficile di continuare quando ti veniva voglia soltanto di fermarti e metterti a piangere dalla fatica che stavi già sentendo e provando, vedi che cominciano a mollare i tuoi avversari e lì allora quello stesso dolore, perché non era più stanchezza, si era trasformato in dolore, di colpo diventa la motivazione più grande a insistere, perché proprio vedi la ruota degli tuoi avversari arretrare rispetto alle tue e lì è una cosa bellissima. Io è un'emozione che ho provato lo scorso maggio, poche settimane fa, alla gara di Coppa del Mondo a Roma, il primo appuntamento importante della stagione, quando sull'ultima salita ho visto pian pianino i miei avversari mollare e ho allungato e sono arrivato al traguardo da solo, beh credimi, le 5-6 mattine successive alle 6 più o meno del mattino mi aprivo un occhio, cominciavo a pensare a sta roba e a quel punto non riuscivo più a dormire. È una sensazione bellissima che poi ti vai a cercare di nuovo con determinazione, perché quando hai avuto la fortuna di provarla una volta, insomma perlomeno ci provi a ritrovare certi momenti così emozionanti che solo lo sport riesce a darti. In diretta con Alex Nardi, allora un po' di sms che sono giunti al 349-238-6666 proprio per Alex. Alex, abbiamo pochissimi minuti, ma Nitro Robic dice Alex number one, poi un saluto al grande campione di vita e grande uomo Alex Nardi a Margot da Ferrara, grande Alex, simbolo della tenacità umana su come non si deve lasciarsi andare da Massimo. Una Laura che ti chiede ti fa una domanda, un figlio disabile dove riesco a trovare officine specializzate per modificare la bici? Forse si può rivolgere al Comitato Paralimpico? Sì, probabilmente la strada migliore è contattare o la Federazione Italiana Ciclistica e magari andare dagli stessi meccanici che seguono la nostra nazionale in trasferta e che fanno una normale attività di officina durante la settimana. Allora, poi naturalmente ancora di ammirazione, strammirevole l'esempio di Alex da Gabri. Una domanda invece che riguarda, che ci richiama la 500 miglia di Indianapolis che si è corsa, ha vinto il francese Benoît Trelluier, dice questo ascoltatore, rimpiangi di non aver corso a Indianapolis a 500 miglia? sì, anche se in realtà i dati sono un po' confusi, perché probabilmente il risultato che hai letto era della 24 ore di Le Mans, che si è disputata proprio oggi. Sì, esatto, ma però lui ti chiede, parte da quello, dalla 24 ore di Le Mans, per arrivare a chiederti della 500 miglia. Guarda, allora ti rispondo in questo modo. 24 ore di Le Mans è una gara che, per qualche ragione, ma è una cosa mia personale, non mi ha mai attirato più di tanto. La 500 miglia è un sassolino in una scarpa che anche a uno come sottoscritto dà un po' fastidio. Credo che ormai sia tardi, però mai dire mai. Va bene, Alex, grazie di essere stato con noi. Spero di averti di nuovo qui a Tempo di Sport. Davvero grazie, spero, Claudio, spero di ritrovarti. Grazie a tutti i radioascoltatori di Radio 24. A Tempo di Sport. Tre meravigliose storie di sport, quelle di Marco Calamai, di Bebe Vio, di Alex Zanardi, per introdurci alla Paralimpiade di Londra, che si svolgerà dal 29 di agosto al 9 di ottobre. 4.200 atleti, 160 nazioni, 20 sport, e noi in Italia abbiamo davvero un vanto della storia paralimpica, perché è stata la prima atleta a partecipare nello stesso anno a Olimpiade e Paralimpiade, un po' quello che poi hanno fatto in seguito Nathalie Dutoit, la partita nel tennis tavolo, Oscar Pistorius nell'atletica, ma la prima è stata Paola Fantato nel tiro con l'arco, che è qui con noi. Buongiorno Paola. Buongiorno a voi. Allora Paola, abbiamo detto questi grandiosi numeri, tu li hai vissuti in diretta per quello che hai fatto nel corso della tua carriera paralimpica, ha detto prima atleta a partecipare nello stesso anno Olimpiade e Paralimpiade. Che emozione fu quella ad Atlanta 96? Beh, è stata un'emozione grandissima. Stavo pensando in questo momento, pensa quel giorno che sarà la normalità. Ah, no? Sì. Che un atleta partecipa a un'Olimpiade, una Paralimpiade, sarà bellissimo o no? Sì, sarà meraviglioso. Non è una cosa scontata, però adesso non darlo come una cosa così facile, perché insomma non è che ci si è riusciti in tantissimi. No, non è assolutamente una cosa facile, assolutamente, perché non lo è per nessuno. Certo. Sia disabile oppure no, non è per nessuno è facile riuscire ad arrivare a un'Olimpiade, insomma. È stata un'emozione grandissima che, cioè, anch'io adesso che in questi giorni, insomma, guardo in TV le Olimpiadi, oppure anche durante la cerimonia stessa, insomma, un po' di commozione ancora ricordando quello che è stato all'epoca, perché insomma entri in uno stadio con tutte quelle centinaia di migliaia di persone, insomma, gli uomini piangevano. Io avevo la piede d'oca. immagino, è stato meraviglioso. Eri lì a tirare in carrozzina con le altre in piedi. E cosa provavi in quel momento, Paolo? Ma guarda, io lo dico sempre, in quel momento lì io non ero sulla carrozzina, io ero un atleta che si stava giocando un'Olimpiade, e quindi io ero, posso dire, concentrata, ero ansiosa, ero sotto stress, sotto pressione, perché volevo riuscire a fare bene, a dare il massimo di me stessa e non uscire subito dai giochi. E credo che lo stesso fosse anche per le avversarie che incontravo. Insomma, nessuno vedeva la mia carrozzina, io vedevo l'avversaria, loro vedevano me, che sai, lì sbagli una freccia, sbagli due e sei fuori dai giochi, insomma, ecco. Anche perché arrivare là vuol dire che comunque sei tra le più forti al mondo. Esatto, sei fra le più forti del mondo, e tu hai vissuto l'emozione anche di due villaggi, quello olimpico, quello paralimpico. Molti mi dicono che il villaggio paralimpico è straordinario, perché si vedono atleti davvero, oltre che di tutte le nazionalità, con ogni tipo di disabilità, no? Quindi in carrozzina, amputati, cerebrolesi, non vedenti, eccetera. È un villaggio emozionante e meraviglioso. Ci racconti i due villaggi, Paola? Guarda, sinceramente io non è che nel villaggio paralimpico abbia mai visto o pensato di guardare gli altri tipi di handicap, certo, no? Certo. Su questo deluderò, però io non ho mai guardato questo. Ah no, non deludi, cioè, hai visto dei grandi atleti. Sì, sì, esatto. Certo, cioè, mi poi magari giusto. Sai, è ovvio che ti interroghi, magari quell'atleta lì con quell'handicap lì che sport potrebbe fare, capito? Ma magari già era in ottica politica di dire dobbiamo reclutare qualche altro atleta. Però no, la cosa che mi ha deluso ad Atlanta è che avendo vissuto i due villaggi, insomma, c'era un abisso tra l'uno e l'altro, insomma, e questo è stato veramente brutto, perché io ricordo che ad Atlanta pensai, caspita, un villaggio così, un campo di tiro organizzato in quella maniera, perché c'era per esempio i bagni per disabili, no? Con la pedana e tutto quanto. Arrivo, dico bene, hanno già organizzato tutto, arrivi poi alle Paralimpiadi, il villaggio è stato ridotto a un triangolo dell'università, del campus dell'università, non c'era più praticamente zona internazionale, ma tutto molto più piccolo, al campo di tiro avevano tirato via i bagni. Sì, ma lo avevi raccontato ed è effettivamente una cosa, è un paradosso, no? Che esatto. Durante l'Olimpiade c'erano i bagni sbarrierati, durante la Paralimpiade no, sembra incredibile. Sì, no, quindi ecco, lì è stato un po' deludente. Io penso che Pechino non sia stato così. Assolutamente. Già bene, insomma, è stato un po' meglio. Quindi penso che Pechino, io ho sentito gli atleti, erano tutti entusiasti, quindi penso che Pechino sia andata molto meglio. Londra mi auguro che lo sia altrettanto, se non di più, insomma. Paola, se dovessi raccontare o spiegare a qualcuno cos'è lo sport paralimpico, cosa diresti? Ma innanzitutto direi che è una sfida, è un modo per acquistare anche, come posso dire, autostima, per capire che le cose si fanno lo stesso, magari in maniera diversa, però puoi raccogliere grandi soddisfazioni. Io credo che mi abbia dato tantissimo lo sport sotto questo punto di vista, e quindi presumo, io penso che sia un veicolo formidabile per la propria autostima, ma anche per la vita poi successiva, insomma, ecco. Tu hai smesso poi di tirare e sei diventata anche dirigente del Movimento Paralimpico Italiano. Che cosa manca ancora? Domani sentiremo Luca Pancalli anche raccontarci e spiegarci bene che cos'è il mondo paralimpico, la storia del Movimento Paralimpico, ma cosa manca ancora al Movimento Paralimpico Italiano? Sicuramente, insomma, come ti confermerà Luca, in questi anni ci sono stati fatti dei passi da gigante, forse perché io mi ricordo da quando cominciai io nell'88, insomma, dove proprio il livello era molto basso, non dico agonistico, dico di visibilità, di considerazione, di tante altre cose. Siamo arrivati a Londra, che presumo sia una cosa spettacolare. Manca che dobbiamo sicuramente arrivare a livelli normali, come dire, che non sia più come posso dire, la Cenerentola dello sport, anche se lo è molto meno adesso, però che venga anche considerato non solo nel momento della gara e quindi che si debbano contare le medaglie, ma anche per tutto il resto dell'anno e del periodo del quadriennio, insomma. E questo credo che avverrà anche grazie a Londra 2012, che si appresta ad essere la Paralimpiade, visto in particolare gli orari che permettono anche all'Italia di poter vedere i grandi atleti paralimpici in azione e anche grazie alle due televisioni che seguiranno la Paralimpiade, cioè Rai e Sky, unico paese al mondo che ha due reti televisive televisive che seguono la Paralimpiade. Grazie allora a Paola Fantato, vanto azzurro dello sport mondiale, perché è la prima al mondo a partecipare a Olimpiade e Paralimpiade nello stesso anno, abbiamo detto Atlanta 96. Grazie Paola. Ciao Claudio, volevo fare un in bocca al lupo a tutti gli atleti, che la vittoria non è sempre solo arrivare primi nel podio, ma fare bene, fare meglio di quello che abbiamo fatto il giorno prima. Questa è la vittoria che secondo me alla quale bisogna puntare. Assolutamente d'accordo, grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Matteo Comes in regia. Tempo di Sport torna domani.